Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17, 7 minuti e 48 secondi. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Di cosa parleremo oggi in una giornata che si appresta ad essere la terza consecutiva di rialzi per le piazze finanziarie europee? Il FTSE MIB guadagna l'1,26%, il FTSE share l'1,10%, positivo il resto d'Europa, se si fa eccezione per la borsa di Bruxelles, un calo dello 0,6%, ma in questo caso pesano naturalmente le vicende di Dexia. Parleremo proprio di questo, di questa ripresa dei mercati finanziari sulla base delle notizie che sono e che stanno arrivando in queste ore dall'Europa, ossia la decisione di muoversi con un piano di ricapitalizzazione delle banche. Un piano che però suscita qualche dubbio, l'idea da più parti che non si vada a risolvere il problema alla radice ma sulla superficie, ossia si vadano a risolvere i problemi di chi detiene i titoli di Stato ma non i problemi dei titoli di Stato stessi, per dirla brutalmente. Poi scenderemo maggiormente nel dettaglio. Parleremo naturalmente anche di quel che ha detto ancora una volta oggi il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che è intervenuto ancora una volta duramente sul tema della disoccupazione giovanile, sul tema di un paese che fatica a far affacciare verso il futuro i giovani. Tra l'altro ne parleremo con una storia e una vicenda abbastanza curiosa, la vicenda di una startup che è sulle e sarà probabilmente domani sulle prime pagine di tutti i giornali per una motivazione politica. Ne parleremo più avanti. Ovviamente parleremo della manovra, o meglio della manovra del cosiddetto decreto sviluppo, tutto inviato, come sapete, intorno al 20 ottobre, e si parla molto di condono. Il ruolo che può avere il condono in tutta questa vicenda naturalmente assai limitato, perché in realtà i soldi del condono non si possono utilizzare di fatto per fare sviluppo ma solamente eventualmente per ridurre il debito. Eppure naturalmente se ne parla, così come si torna a parlare di patrimoniale e così come ricominciano a spuntare ipotesi dei più svariati generi, esattamente come è accaduto precedentemente con la manovra. Iniziamo, come sempre, dalle notizie in breve di oggi. Le materie prime innanzitutto. L'oro in rialzo sui mercati asiatici a 1664,50 dollari l'oncia, più 0,8%. In rialzo anche il petrolio negli scambi after hours a 83,08 dollari. Vi segnaliamo un dato interessante a proposito di energia che arriva dall'Italia. Nel mese di settembre 2011 l'energia elettrica richiesta ha fatto registrare una crescita del 6,1% rispetto allo stesso mese del 2010. Il dato va depurato dell'effetto temperatura. C'è stata una media mensile superiore di circa 2 gradi centigradi. La variazione della domanda di settembre 2011 diventa un più 5%. Ci sono i dati dagli Stati Uniti e anche questi hanno contribuito a confortare le borse, naturalmente. Sono stati creati 103.000 nuovi posti di lavoro, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 9,1% e parliamo dei dati riferiti al mese scorso, il mese di settembre. Che cosa è successo? Che il numero di posti di lavoro creati in settembre è stato superiore alle stime degli analisti. Inoltre è stato rivisto al rialzo a 57.000 il dato di agosto. In particolare nel settore privato sono stati creati 137.000 posti di lavoro, nel pubblico ne sono stati bruciati 34.000. Vi segnaliamo anche le parole del governatore della Bank of England, Mervyn King, che come sapete ha annunciato un secondo round di quantitative easing. Questa è la più seria crisi finanziaria che si sia mai vista a partire dagli anni 30. e aggiunge, se non la peggiore di sempre. Per quanto riguarda l'Italia, partiamo da quello che ha deciso di fare ATP, il più importante fondo pensionistico danese, che ha annunciato di non voler più accettare titoli italiani e francesi come garanzia sui finanziamenti. Un fondo da 122 miliardi di dollari ha rinegoziato i contratti per escludere i bond venduti da Italia, Francia e altri paesi del sud Europa come garanzia sui derivati. Dal lato degli spread, oggi è una giornata di calma, come del resto da qualche giorno. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi è a 350 punti base. Da segnalare che c'è anche una risalita dei rendimenti dei titoli di Stato tedeschi. E poi c'è il sondaggio mensile dell'Economist sulle previsioni di un gruppo di 18 tra banche e centri studi internazionali. L'Italia arriverà l'anno prossimo sull'orlo della recessione, con un incremento del PIL nullo, e si collocherà in coda alla velocità di crescita tra i grandi paesi della zona euro. Il taglio rispetto alle stime di settembre è di 4 decimi di punto. Il PIL italiano nel 2012 si prevede sarà pari a zero. Una bassa crescita, secondo il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, è anche riflesso delle sempre più scarse opportunità offerte alle giovani generazioni, dice Draghi. Le difficoltà incontrate dai giovani devono preoccuparci, le loro prospettive di reddito sono più che mai incerte. E chiede il governatore della Banca d'Italia di riavviare lo sviluppo con misure strutturali. A proposito di giovani, oggi, come abbiamo raccontato anche ampiamente nei giornali radio, ci sono stati, se non scontri, comunque momenti di tensione in varie città italiane. Dal corteo di Milano sono state lanciate vernici e uova contro le sedi delle banche. Save schools, not banks, era lo striscione di testa e il grido di battaglia della manifestazione organizzata dal coordinamento dei collettivi. Gli studenti hanno tentato un'irruzione nella sede dell'agenzia di rating Moody's, ma sono stati bloccati nell'atrio. Misure per lo sviluppo, si diceva, quelle chieste da Draghi. Ci sono le parole su questo tema e soprattutto sul tema del condono, del quale si sta parlando, di Maurizio Gasparri, ma anche di Fabrizio Cicchito, quindi capogruppo sia alla al Senato e alla Camera del PDL. Domanda sul condono, risposta: possiamo considerare tutte le misure. E poi il ministro Paolo Romani, ministro dello sviluppo economico, incaricato del coordinamento per queste misure di sviluppo, per la messa a punto di queste misure di sviluppo, un metodo di coordinamento ampio e collegiale, annuncia. A parlare anche la presidente degli industriali, Emma Marcegaglia. Lo scenario attuale, dice, è complesso, dominato da incertezze, sono richieste decisioni importanti da parte delle leadership politiche. La riduzione del debito pubblico e del deficit è un problema da affrontare insieme, va fatto con intelligenza, ma c'è anche la necessità di tornare a crescere. Da Confindustria è arrivata oggi anche la notizia, è filtrata oggi anche la notizia tramite agenzie, di una lettera che Emma Marcegaglia ha scritto ai presidenti del sistema Confindustria. Disappunto per le motivazioni dello strappo di Fiat, non è vero che vi sia una qualsiasi oggettiva convenienza a lasciare l'associazione. Stare dentro, scrive Emma Marcegaglia, non significa perdere le opportunità dell'articolo 8 della manovra. Emma Marcegaglia, che è intervenuta oggi ad un forum economico Italia-Brasile. Nel paese ci sono circa 750 nostre imprese, il flusso di investimenti in 4 anni è stato di 1,2 miliardi di euro, l'interscambio dal 2006 è salito del 30% e le esportazioni del 70%. Quanto alla presenza delle imprese brasiliane in Italia, Marcegaglia ha evidenziato che appena lo 0,1% delle imprese estere in Italia è fatto da aziende brasiliane. Aggiunto, forse anche su questo possiamo fare di più. Sentiamo dunque proprio sul tema dei rapporti economici con il Brasile. Ogni volta che sento i numeri del Brasile ho un misto di grande stima e anche di un po' di invidia, lo dico sinceramente, non sto scherzando, ma insomma questo è un paese straordinario. Io tra l'altro, anche il mio gruppo dal 1999 è presente con uno stabilimento nello stato di Santa Catarina che abbiamo già triplicato in questi anni. C'è una grande soddisfazione per l'investimento fatto. Qui vedo tanti imprenditori italiani amici che hanno presenze altrettanto significative e forti in Brasile, e questo è un paese straordinario, un paese che ha i conti in ordine, un paese che ovviamente, questo va detto prima, ma lo diamo ormai per scontato perché lo conosciamo bene, che ha come dire, una politica democratica chiara senza nessun tipo di logica diversa, un paese che ha fatto negli anni un lavoro straordinario, non solo come dire nella crescita del PIL, ma che ha fatto un lavoro straordinario che tutto il mondo ha guardato e guarda con grande ammirazione nel far uscire dalle condizioni di povertà un numero straordinario di persone, nel creare una classe media che oggi c'è, che traina la domanda interna e i consumi. È un paese straordinario, un paese in cui affluiscono investimenti esteri molto forti dall'Europa certamente, ma anche da tutto il mondo. Gli investimenti esteri affluiscono a un livello inferiore solo, a livello generale, solo a quelli degli Stati Uniti, della Cina e del Belgio. Vi aggiorniamo sulle ultime, sempre sul tema dello sviluppo. Riaggiornate la data che vi abbiamo dato poco fa. Abbiamo detto decreto sviluppo entro il 20 ottobre. Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha detto che verrà presentato entro la metà di ottobre con misure concrete ed efficaci nell'interesse dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. E poi prende una metafora, consentiteci di dirlo, brunettiana, perché è sempre lui che ha usato questo termine negli ultimi giorni. Con le ultime manovre economiche abbiamo somministrato i necessari antibiotici al sistema. Ora stiamo preparando le vitamine per la crescita. 349-238-6666 per i vostri SMS. Iniziamo però dall'Europa. In Europa, come sapete, sta prendendo corpo l'ipotesi di procedere a un piano coordinato tra i paesi per favorire i rafforzamenti dei patrimoni delle banche. Questa strada è stata rilanciata anche dal presidente della Commissione europea, José Manuel Durão Barroso. Sempre ieri la Banca Centrale Europea ha aperto i rubinetti a favore delle banche, spronandole a fare tutto il necessario per rafforzare le loro posizioni patrimoniali. Misure straordinarie a sostegno del settore bancario. Un nuovo programma di acquisti di bond che opererà in parallelo a quello già in corso sui titoli di Stato. Domenica 9 ottobre, ossia domenica prossima, a Berlino, vertice tra la cancelliera Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy. Saluto Moria Longo del Sole 24 Ore che ci ha raggiunto in studio. Moria, buonasera. Buonasera a tutti. E buonasera Pierpaolo Benigno, docente di economia monetaria all'Università Luis Guido Carli. Buonasera professore. Buonasera a tutti. Professore, io partirei con lei perché lei oggi firma un commento in prima pagina proprio sul Sole 24 Ore nel quale dice in sostanza che la strada non è quella, la strada non è quella di ricapitalizzare le banche perché è una copertura parziale del problema, non si va alla radice vera del problema che è esattamente quello dei debiti pubblici, professore, no? Sicuramente, insomma, quello che sostengo è che ricapitalizzare solo le banche non è sufficiente per risolvere la crisi, anzi la potrebbe un po' ritardare, allungare e i costi sarebbero maggiori. Ma perché stiamo arrivando a ricapitalizzare le banche? Perché fondamentalmente la crisi sui debiti sovrani ha alzato i costi di finanziamento delle banche, ha impedito a loro di accedere a mercati di capitali facili, quindi con collaterale che adesso diventa sempre meno pregiato, per cui si trovano in difficoltà. Il motivo per cui si trovano in difficoltà è proprio la crisi dei debiti sovrani. questo punto dobbiamo capire se gli stati sono solventi o non solventi. Il caso della Grecia è il caso di un debito sovrano parzialmente non solvente, più di quello che è stato già definito negli accordi del 21 luglio, quindi più di quel 20% sarà circa una entrata attorno al 50%, per cui in questo caso ovviamente bisogna preparare le banche ad affrontare queste perdite, però ci sono altri casi, come il caso italiano, di crisi che nascono inizialmente come crisi di fiducia. Quindi in quei casi, se è una crisi di fiducia, bisogna lavorare per ridurre la crisi sul debito e quindi direttamente sugli spread, piuttosto che ricapitalizzare le banche, perché ricapitalizzare le banche significherebbe riconoscere delle perdite eventuali anche sul debito italiano, spagnolo e di Sì, altri paesi. certo. Poi naturalmente il problema resta, nel senso che il problema è come fare tutto questo. Avete sentito una serie di termini utilizzati dal professor Benigno, collaterale, spread, haircut, eccetera, eccetera. Allora, se avete bisogno di spiegazioni, al di là di quelle che vi possiamo dare noi quotidianamente, domani in edicola col Sole 24 Ore c'è parola chiave il Sole 24 Ore, che è il nuovo glossario dell'economia per capire che cosa cambia. In edicola col Sole solamente nella giornata di domani, vi assicuro che è molto utile anche per noi che lavoriamo quotidianamente con tutto questo e cerchiamo di rendere chiaro a tutti quanti di che cosa stiamo parlando. Allora, Moria Longo, più che per parlare di questo libro, anche per parlare di questo libro, ma anche per capire come la vedi tu. Ma io pensando a quanto dicevate adesso sul salvataggio delle banche, comunque la ricapitalizzazione delle banche da parte degli stati, concordo pienamente e sottolineerei anche una cosa, cioè il fatto che può essere a sua volta rischioso. Ricordiamo cosa è successo in Irlanda quando lo Stato ha ricapitalizzato le banche, alla fine è lo Stato stesso che è andato quasi gambe all'aria. Ricordo solo che per esempio in Francia gli attivi di tutte le banche francesi, quindi il totale di tutte le attività che fanno le banche francesi, è pari al 185% del prodotto interno lordo francese, quindi le banche sono molto più grandi dello Stato. Adesso è ovvio che non vengono salvate tutte, non, cioè, non, è, non, non sono questi i numeri, però per uno Stato può essere molto pesante, quindi si rischia di aggravare la crisi degli Stati salvando le banche, che è proprio il motivo per cui molti Stati in Europa oggi sono già in difficoltà. Per cui concordo pienamente, il problema attualmente è risolvere la crisi greca, che è uno Stato, quello già con numeri da insolvenza, bisogna trovare la quadra ed evitare che la Grecia poi porti un effetto domino in tutto il resto d'Europa. Professore, però non rischiamo il circolo vizioso, nel senso che qua se non si salvano le banche, se si salvano solamente le banche, rischiamo come dire, di perdere di vista quello che è l'obiettivo fondamentale, ossia intervenire appunto sul debito sovrano, il che ha tutti i problemi che abbiamo mille volte rappresentato, l'eterno dibattito tra crescita e conti e quant'altro. Dall'altra parte, però, se non salvi le banche, va veramente tutto a gambe all'aria. Che abbiamo perso troppo tempo, insomma, per salvare gli stati sovrani il debito sovrano c'era già, insomma, è passato un anno e anche di più dall'inizio della crisi greca e l'effetto domino in un certo senso è già iniziato. Il rischio è grosso a questo punto, nel senso i tempi sono veramente stretti. La crisi del debito sovrano è diventata una crisi delle banche. Adesso il punto interrogativo è capire cosa succederà all'economia reale. A quel punto, con una stagnazione, eventualmente una recessione, anche se oggi magari i dati americani sono stati sopra le attese sull'occupazione, però se ci sarà una stagnazione, una recessione, allora anche quei debiti che sembravano solidi in un certo senso diventano meno solidi e quindi diciamo, si realizzano quelle profezie diciamo, di default non solo per quei paesi poco virtuosi come la Grecia, ma anche per altri che comunque hanno mantenuto i conti in ordine e peccano però della crescita. Quindi il problema è che nel circolo vizioso purtroppo ci stiamo entrando e a quel punto i costi possono essere realmente moltiplicativi, ecco. Moria Longo, ti chiedo di essere veramente didascalico in questo caso, ma se crolla una banca, che ha in portafoglio dei titoli di Stato, come per esempio potrebbe avvenire per Dexia, della quale stiamo trattando in questi giorni, che ha in portafoglio un 15 miliardi di obbligazioni italiane, obbligazioni di Stato italiane circa, e un 5 miliardi di obbligazioni greche. Ma ci sono effettivi rischi per uno Stato oppure no? Cioè, alla fine conviene farle fallire queste banche oppure no? Perché... Allora, io ricordo semplicemente che un esempio di un fallimento di banca c'è già stato, l'abbiamo già sperimentato nel 2008, è fallita Lehman Brothers. Lì l'impatto non è stato perché Lehman Brothers aveva titoli di Stato in portafoglio. Per esempio, Lehman Brothers era una delle banche più attive con il tesoro italiano, aveva fatto un sacco di operazioni col tesoro italiano, era forse la più attiva o comunque una delle più attive. Però l'impatto non è stato perché Lehman Brothers deteneva titoli di Stato italiani o altri titoli. L'impatto è stato perché ha creato una sfiducia enorme sul mercato. E perché ha creato una sfiducia enorme? Il motivo è ovvio, perché il mercato ha iniziato a dire: ma se fanno fallire Lehman Brothers, che era un evento prima assolutamente impensabile, allora domani può fallire un'altra banca. È iniziato il tiro al bersaglio, ogni giorno sembrava che stesse per fallire una banca, tant'è vero che gli stati sono dovuti intervenire e salvarne tantissime. Oggi il rischio è lo stesso, il rischio è che se dovesse, per esempio, traslando il discorso su uno Stato, se dovesse andare in default la Grecia, allora a quel punto verrebbe meno un tabù, no? Il fatto che uno Stato europeo dell'area euro non possa mai andare in default, verrebbe meno questo tabù, e questo potrebbe minare la fiducia degli investitori. Per cui, tornando alla tua domanda, penso che il problema non sarebbe tanto perché Dexia o qualche altra banca ha in portafoglio titoli di Stato italiani o portoghesi o greci, il problema è l'ondata di sfiducia che questa cosa potrebbe portare. Questo potrebbe alzare i rendimenti di tutti i titoli di Stato e titoli bancari e rendere sempre più oneroso, se non impossibile o comunque difficile, il rifinanziamento dei debiti. Allora quello sarebbe il vero problema. Professore, conviene farle fallire alla fine le banche se si trovano, come dire, in condizioni difficili? Prendiamo Dexia, poi voglio dire, possiamo parlare infinitamente di come sono andati i meccanismi di controllo in questi ultimi anni. Fabio Pavesi sul Sole 24 Ore di oggi ricorda giustamente che negli ultimi stress test Dexia aveva dei parametri patrimoniali nel peggiore scenario, nello scenario peggiore possibile, ottimi, eccellenti, e di questo poi su questo andrebbe fatta una trasmissione a parte. Ma alla fine converrebbe farle fallire queste banche oppure no? Beh, qui ci sono due posizioni. Noi vogliamo la sua, professore, però. La mia è che no, non bisogna far fallire le banche, perché innanzitutto, come ha detto prima Moria Longo, insomma, ci sarebbe un effetto domino, ma l'effetto domino viene perché le interdipendenze dei mercati finanziari sono così strette. Per cui il fallimento di una banca significa il fallimento di questa banca verso i suoi creditori, che sono altre banche, che a loro volta hanno altri crediti verso altri debiti verso altre banche. Quindi l'effetto sarebbe veramente moltiplicativo, per cui non conviene far fallire banche, questo lo sappiamo. Ovviamente c'è il solito discorso del perché dobbiamo socializzare le perdite delle banche, invece i profitti vengono privatizzati, e anche perché le banche si trovano in queste condizioni, e le banche si trovano in queste condizioni perché fanno degli errori di investimento. Qui il problema non è tanto l'eccesso di liquidità che c'è stato, ma è l'uso improduttivo della liquidità. E quindi chi vuole in un certo senso penalizzare, a un certo punto, quando si parla di penalizzare il settore privato perché ha investito nei titoli della Grecia, e perché ha fatto degli investimenti sbagliati. Quindi queste sono le due anime. Ovviamente penalizzare troppo le banche significa creare gli effetti domino, contagio, per cui il sistema finanziario può collassare in maniera che noi non abbiamo la percezione a questo momento. Professore, mi resta il dubbio del circolo vizioso, quindi le chiedo di rimanere con noi ancora un attimo. Tra un attimo andremo in pausa pubblicitaria e poi la riprendiamo. Intanto chiudo con Maria Longo, perché so che ha altri impegni. Brevemente, per quanto riguarda il libro col quale uscite domani. Sì, il libro tratta tutte le parole chiave per capire questa crisi, da parole che ormai si sentono al telegiornale: spread, credit default swap, sono le parole che stanno influenzando la nostra economia e il nostro futuro. Quindi è giusto che chi non è addetto ai lavori, o magari chi è addetto ai lavori ma magari si occupa di un settore e non conosce esattamente tutti gli altri, non siamo tutti tuttologi, è giusto conoscere questa parola, avere una spiegazione per capire poi esattamente come funzionano i fenomeni e perché questi mercati finanziari, che ricordo sono 8 volte più grandi del PIL del mondo intero, se si sommano i mercati derivati, delle borse, i mercati obbligazionari, come fanno questi mercati così giganteschi a influenzare alla fine l'economia reale, addirittura rischiare di mandare a gambe all'aria degli stati. Ecco, questo libro è un vocabolario, è un prontuario per capire proprio le parole chiave, per capire proprio come funziona questa crisi che ci sta veramente mettendo in difficoltà. Grazie dunque a Maria Longo del Sole 24 Ore, buonasera e buon lavoro. Professore, abbiamo una breve pausa, resti con noi e poi voglio ritornare ancora su questi temi e voglio che ci indichi una via d'uscita, per carità. 349-238-6666 per i vostri sms. Le 17:38 minuti e 38 secondi, siamo ancora in diretta a parlare d'Europa. Di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms, ancora con Pierpaolo Benigno, docente di economia monetaria all'Università Luis Guido Carli di Roma. Allora, professor Benigno, le abbiamo chiesto una via d'uscita perché, insomma, appunto, abbiamo il problema che le banche in qualche misura vanno salvate, insomma non è che proprio le puoi far fallire, ce lo siamo detti prima della pausa. E dall'altra parte però bisogna intervenire alla radice, ossia sui bilanci pubblici, con tra l'altro il grande dilemma crescita o rigore che sta attraversando tutte le discussioni di questo periodo. So che le chiedo tanto, professore, però ci provi, prego. Allora, la soluzione, voglio dire, quello che si potrebbe fare, insomma, da un lato sicuramente, come abbiamo detto, cercare di sostenere le banche e quindi le loro passività, il loro capitale, soprattutto per far fronte alla crisi greca. Secondo punto è che gli stati continuano a fare il loro dovere in termini di austerità fiscale, ovviamente un'austerità fiscale intelligente che sia rivolta alla crescita. Questo è molto difficile soprattutto nelle condizioni economiche, macroeconomiche in cui ci troviamo, e tutto questo deve essere accompagnato da garanzie illimitate sui debiti sovrani dei paesi che sono solventi e che lo erano qualche mese fa, e questi paesi sono ad esempio l'Italia o piuttosto la Spagna. Quindi garanzie limitate significa che un'istituzione europea, che sia il Fondo Salva Stati da un lato, oppure che sia la Banca Centrale Europea come sta facendo in questo periodo, si impegni ad acquistare un ammontare di questi titoli, o si impegni o li garantisca nella sua totalità. Ecco, quello che la Banca Centrale ad esempio sta facendo adesso va bene, però è una garanzia soltanto parziale, non definita. Noi non sappiamo quanti titoli alla fine la Banca Centrale è disposta ad acquistare, ed è appunto il limite di queste garanzie che pone gli investitori di fronte al problema di capire se il debito alla fine è un debito buono o no. Quindi se è una crisi di fiducia, bisogna chiuderla la crisi di fiducia. Sì. E quindi l'unica maniera è che ci sia un prestatore di ultima istanza che lavori. Questo è il problema. Detto ciò, anche nella Banca Centrale Europea, da quel che ci è sembrato di capire, da quel che è successo, si prendono ad esempio le dimissioni di Jürgen Stark, anche là il problema sembra essere tutto ed esclusivamente politico. Dal lato delle mosse che ancora può fare la Banca Centrale Europea, ci chiedono gli ascoltatori via sms al 349-238-6666 le armi non convenzionali, per così dire, insomma, quantitative easing, e quelle più convenzionali, banalmente tagliare i tassi, insomma, forzare un po' lo statuto, visto che la condizione è quella che è. Lei che dice? Allora, il quantitative easing di suo è qualcosa che io penso che non funziona molto. Qui stiamo parlando più di un altro easing, che è il credit easing. Cioè, quando vado ad acquistare dei titoli di Stato di paesi in cui c'è una crisi di fiducia, non è tanto un quantitative easing, ma un credit easing, cioè va ad allentare problemi creditizi in certi mercati. Quindi queste sono operazioni che hanno molto effetto e appunto devono essere portate avanti. Ovviamente è imbarazzante come la Banca Centrale Europea tenga ancora i tassi di interesse relativamente alti, diciamo, relativamente rispetto agli altri paesi come la Gran Bretagna oppure gli Stati Uniti. cambio che prima si era apprezzato, adesso si è un po' deprezzato per la crisi. Quindi ovviamente si deve lavorare sugli spread, che significa la differenza fra un rendimento di un titolo rischioso e un titolo senza rischio, quindi lo spread è questa differenza, ma si può anche lavorare sul livello, quindi abbassando i tassi si abbassano tutti i costi di finanziamento del sistema, degli intermediari, delle banche, quindi a un certo punto bisogna lavorare anche in quella direzione. E questo lo si fa non tanto per le banche che hanno delle buone possibilità di raccogliere fondi e del buon collaterale, quindi da vendere presso la banca centrale per raccogliere della liquidità, ma soprattutto per quelle banche che si trovano adesso in difficoltà, che non hanno delle buoni attivi da poter scambiare in cambio di liquidità. Ecco, questa è la cosa importante. Quindi queste sono le due, diciamo, le due cose ultimo, che si possono fare. Ultimo e brevissimo, professore, le chiedo. Sì. A questo punto però sono veramente problemi di Draghi, perché muoversi in direzioni di questo genere per uno che è italiano, di fronte ai tedeschi, di fronte, come dire, al grande azionista della BCE, potrebbe essere assai problematico. Sì, questo è una cosa che, insomma, ho già scritto recentemente anche sul Sole, è un problema. Infatti mi sarei aspettato che Trichet lo aiutasse di più, cioè abbassasse adesso lui i tassi anziché lasciare, insomma, la palla a Draghi. Ovviamente insomma, è una problematica per un governatore della Banca Centrale Europea, che aiuta fin troppo, voglio dire, un paese come l'Italia. Tutto a quel punto ruoterà attorno ad altre istituzioni come il Fondo Salva Stati, ma anche lì c'è molta discussione su che cosa il Fondo Salva Stati può fare, l'allargamento e l'acquisto dei titoli. Eventualmente, guardi, quello che io credo è che gli americani sono molto preoccupati di quello che sta succedendo, e quando si sentono voci che il Fondo Monetario vuole entrare in maniera maggiore nell'acquisto dei titoli, che poi vengono smentite, sono voci che in un certo senso fanno capire come anche gli americani forse interverranno nel nostro mercato. Interverranno, e forse queste pressioni alla fine avranno anche un'efficacia sulle decisioni di politica monetaria. Grazie, sì. Grazie professore, grazie al professor Pierpaolo Benigno, docente di economia monetaria all'Università Luis Guido Carli di Roma, e buonasera. Grazie, buonasera. La viabilità, poi andiamo con i mercati che hanno chiuso in positivo, più 1,29% sul FTSE MIB, più 1,13% sul FTSE All Share, bene anche il resto d'Europa, Milano la migliore tra l'altro. Le 17:47 minuti 35 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia. Non stiamo dicendo che Draghi è un portatore di interessi italiani, stiamo dicendo semplicemente che se facesse delle mosse da governatore della Banca Centrale Europea troppo favorevoli all'Italia, per così dire, o quantomeno sfavorevoli all'idea di politica monetaria che hanno i tedeschi, verrebbe interpretato come un portatore di interessi italiani e quindi cammina un po' sui carboni ardenti. I mercati. Livia Zancanerra, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Buona giornata anche oggi. Più 1,29% il FTSE MIB, più 1,13% il FTSE All Share. Tra l'altro, Milano la migliore, vedo, con Francoforte che sale di appena mezzo punto, Parigi dello 0,66. Va male solo Bruxelles, ma là c'è Dexia. A cosa dobbiamo? Sì, allora bisogna dire che la mattinata, cioè la seduta di oggi, era iniziata in maniera piuttosto incerta, poi il dato migliore delle attese sul lavoro pubblicato negli Stati Uniti alle 14:30 ha risollevato l'Europa, che quindi ha accelerato e ha chiuso, e Milano ha chiuso in rialzo di oltre l'1%. Bisogna dire che con questo rialzo Milano chiude in territorio positivo la terza seduta consecutiva e archivia con un bilancio positivo a più 4,7% circa una settimana che era iniziata invece negativa, con due sedute chiuse in ribasso, quella di lunedì e di martedì. Iniziamo dalla migliore, la Popolare di Milano, ancora una volta più 4,30%, sono ancora i temi relativi al vertice, tra l'altro oggi c'è stata qualche evoluzione sulla vicenda. sì, allora ci sono sempre grandi manovre sulla società in attesa del rinnovo dei vertici il prossimo 22 ottobre, quindi si scommette su un rastrellamento quindi dei titoli anche in vista dell'aumento di capitale da 800 milioni che partirà il 31 ottobre. Ieri è spuntato il nome del nuovo presidente del Consiglio di Sorveglianza, una candidatura messa a punto dai dipendenti soci dell'istituto, quindi Filippo Annunziata, e quindi tutta la speculazione, l'attenzione che vi è sul titolo lo sostiene, ha permesso quindi di chiudere in rialzo del 4,3% realizzando la migliore performance sul FTSE MIB. Le due grandi banche italiane, Unicredit e Intesa, se la cavano benissimo, più 4,18 e più 3,23 rispettivamente. Sì, allora bisogna dire che a Milano è andato bene tutto il settore bancario. Per quanto riguarda in particolare Intesa San Paolo, già a settembre l'amministratore delegato Corrado Passera aveva confermato gli obiettivi 2011 nonostante la crisi del debito, dicendo di non aver bisogno di una eventuale necessità di nuovi mezzi freschi, e ieri inoltre Passera è tornato sull'argomento dicendo che la banca ha una forte capacità di raccolta. A fine settembre era già stato coperto al 95%, erano già state coperte al 95% tutte le scadenze a medio e lungo termine del 2011 e il 100% di quelle nei confronti investitori istituzionali, quindi rassicurando sulla situazione della banca. Abbiamo tra i titoli positivi Eni, che guadagna un 3,5%, Eterna un 3,12%, c'è qualche motivo particolare? Allora, per quanto riguarda Eterna, sì, nel senso che il titolo oggi è stato spinto da una serie di giudizi positivi del mercato, in particolare in vista della decisione sulla Robin Hood Tax. Infatti alcuni esperti ritengono che nel prossimo decreto sviluppo che il governo dovrebbe varare per la seconda metà di ottobre, l'impatto fiscale della Robin Hood Tax, attualmente a 10,5%, potrebbe essere ridotto in cambio di un incremento degli investimenti da parte delle società di utilities italiane, quindi il titolo ne ha beneficiato e ha guadagnato oltre il 3%. Sì, con gli energetici a due facce oggi, perché Snam Rete Gas c'è dello 0,11%, nel Green Power lo 0,29%, positiva Enel che guadagna l'1,74%. Ecco, in fondo al listino troviamo, e non è la prima volta in questo periodo, Fondiaria Assai, meno 4,38%. Sì, allora bisogna dire che questa volta c'è una notizia, nel senso che ieri la società ha lanciato il profit warning, quindi l'allarme sui conti del 2011. Il gruppo infatti ha comunicato che è ragionevole prevedere un mancato raggiungimento del risultato netto di gruppo previsto nel budget 2011 con un ammontare superiore a 5 milioni di euro. Questo a causa delle turbolenze sui mercati e delle svalutazioni per 250 milioni di euro sul portafoglio titoli, quindi diciamo a causa della crisi economica, crisi finanziaria che sta colpendo l'Europa. Giù la Popolare Emilia Romagna del 3,87% e giù anche Tenaris del 3,4%. A cosa dobbiamo, Olivia? Allora, per quanto riguarda Tenaris si tratta più che altro di realizzi, nel senso che il titolo nelle ultime due sedute ha guadagnato il 15,6% grazie anche al rialzo del petrolio. Anche qua però vi è una notizia, nel senso che la concorrente francese Vallourec ha tagliato gli obiettivi per il secondo semestre. Infatti la società ha annunciato che a causa sempre delle incertezze economiche l'utile operativo nel secondo semestre dovrebbe essere in linea a quello del primo trimestre e non superiore come previsto a fine luglio, quindi probabilmente il mercato ne ha approfittato per prendere beneficio su Tenaris, che aveva guadagnato molto. Ultima cosa che ti voglio chiedere, se c'è qualche altra segnalazione soprattutto dai titoli minori. Sì, allora bisogna sottolineare il balzo oggi di Zucchi, che ha guadagnato l'11,9%. Ieri è diventato efficace l'accordo di ristrutturazione del debito bancario sottoscritto il 13 giugno scorso, in quanto l'accordo è passato in giudicato, quindi il titolo oggi ha festeggiato appunto con un guadagno di quasi il 12%. Anche le risparmio sono salite, hanno chiuso la seduta a più 12,3%. E grazie anche per oggi ai colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore, a Livia Zancaner. Buonasera Livia. Buonasera. E noi andiamo a darvi un quadro finale di giornata anche sugli altri titoli. Giù Azimut del 2,5%, di 2 punti percentuali, Buzzi Unicem, il Monte dei Paschi e Diasorin, Ansaldo dell'1,8%, dell'1,7% il Banco Popolare, Fiat Industrial altrettanto, giù dell'1,6% Prismian, dell'1,4% Mediobanca e di 1 punto percentuale UBI Banca. giù a 2A dello 0,67, Atlantia dello 0,63, di mezzo punto percentuale Mediolanum e Mediaset dello 0,4, lievemente negativi anche Campari, meno 0,37%, è nel Green Power della quale vi abbiamo detto, dello 0,29%, e Generali giù dello 0,24%, Luxottica ed Exor dello 0,2%, dello 0,1% Snamrete Gas, Finmeccanica ed ST Microelectronics. Tra i titoli in positivo, oltre alla Popolare di Milano, Unicredit, Intesa San Paolo ed Eni, dei quali vi abbiamo detto siamo su guadagni superiori ai 3 punti percentuali, ai 4 per quanto riguarda Unicredit e la Popolare di Milano, positiva Terna del 3,12%, Saipem del 2,7, Pirelli di 2 punti percentuali, dell'1,7 Enel, dell'1,7 anche Fiat, dello 0,77 Impregilo, dello 0,7 Telecom Italia, Autogrill di mezzo punto così come Tots, Lottomatica dello 0,3, Parmalat altrettanto, dello 0,3%. L'euro quota 1,35,12 contro dollaro, 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso c'è la pausa, il giornale radio e poi ritorniamo. Parleremo naturalmente del decreto sviluppo in arrivo entro la metà di ottobre, come ha riferito il presidente del Consiglio Berlusconi, e parleremo di condono. Dopodiché parleremo di giovani e delle parole ancora una volta del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, oltre che della vicenda di una startup, insomma, che oggi sta facendo notizia. Sono le 18:07 minuti e 30 secondi, di nuovo buonasera gentili ascoltatori da Simone Spezia e bentornati a Focus Economia. Ci chiedete di nuovo la chiusura di borsa per chi si è sintonizzato solamente adesso, FTSE MIB più 1,29%, FTSE All Share più 1,13%, vi ricordo anche tra l'altro che domani sul tema dei mercati e non solo trovate parecchie cose sul Sole 24 Ore, a partire dal libro che trovate solo domani con le parole chiave, una sorta di glossario finanziario, e poi con Plus 24, le forme di investimento per una vecchiaia serena, tutto quello che bisogna sapere per scegliere con tranquillità. Questo a proposito di mercati, però adesso ci occupiamo finalmente del famoso decreto sviluppo. Nel frattempo è arrivata un'altra notiziaccia, in questo momento Fitch, mancava solo quella in effetti, ha tagliato il rating italiano ad A+, l'outlook negativo. Attendiamo altri dettagli del comunicato, ve li daremo nel corso della trasmissione come è naturale, per capire quali sono le motivazioni, perché come sapete le motivazioni poi possono essere diverse, che hanno indotto anche la terza agenzia di rating a tagliare il giudizio sull'Italia. E probabilmente ci sarà anche il tema della crescita, dunque di questo che ci occupiamo. Marco Rogari del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera agli ascoltatori, buonasera. Condono o non condono? Non condono, almeno con il decreto sviluppo, nel senso che questo fantomatico, chiamiamolo così, decreto sviluppo, visto che viene rinviato ormai di settimana in settimana, non dovrebbe contenere misure una tantum, anche perché il condono appunto è una misura una tantum e non potrebbe contribuire al reperimento di nuove risorse per favorire la crescita. Tutte le misure una tantum, come sappiamo noi, dei parametri europei, possono essere utilizzate soltanto per ridurre il debito. Quindi se condono dovrà essere, potrà essere soltanto in un'operazione più complessiva di abbattimento del debito, dove potrebbe rientrare anche la dismissione degli immobili e questo piano di dismissione che si sta preparando, ma sicuramente non con il decreto sviluppo, almeno così pare. Almeno così pare, perché poi non si sa mai. Comunque, su che cosa si sta lavorando in queste ore, Marco? Oggi c'è stata una riunione, la prima riunione sotto il coordinamento del ministro Romani, coordinamento che è stato deciso ieri su iniziativa del PDL, che in questo modo spera di esercitare maggiori pressioni sul ministro Tremonti e di giungere a una più chiara, diciamo così, collegialità, e si sta ancora lavorando a i due pacchetti convenzionali, scusate l'impiccio di parole, le infrastrutture e le semplificazioni. Semplificazioni sarebbero misure per favorire maggiormente la libertà d'impresa, si tratterebbe di un sostanziale anticipo della riforma costituzionale che ha già presentato il governo sull'articolo che riguarda appunto la libertà d'impresa, mentre le infrastrutture dovrebbero essere essere previste una serie di agevolazioni fiscali per facilitare il rilancio delle opere pubbliche, soprattutto per le imprese che appunto sono interessate nel settore. Patrimoniale, se ne continua a parlare, ci sono varie ipotesi sul tavolo, abbiamo sentito un 5 per 1000 dei patrimoni, che da questo lato ci si sta pensando davvero o è un'ipotesi che viene ritenuta anche politicamente impraticabile o inizia a diventare qualcosa di concreto? Nel PDL, fermo restando la contrarietà di Berlusconi, che è risaputa, quindi il premier è contrario, e ferma restando anche la cautela con cui si muove su questo fronte il ministro dell'economia, nel PDL c'è qualcuno che si sta cominciando a convincere che potrebbe essere una soluzione, cioè quantomeno una patrimoniale soft, diciamo così. La Lega da parte sua, pur senza esporsi ufficialmente, dovrebbe essere favorevole, perché se ricordiamo fu già Calderoli, in sede di stesura della manovra di Ferragosto, a ipotizzare una sorta di patrimoniale sulle ricchezze più consistenti, insomma, quindi la Lega dovrebbe essere favorevole. Quanto alle chance, questo rientra tutto in questo processo più ampio di abbattimento del debito, cioè se la maggioranza ha la forza, viste i veti incrociati, le intenzioni che ci sono, di varare un piano ad ampio respiro, potrebbe anche rientrare la patrimoniale soft, ribadisco, Berlusconi permettendo. Invece si continuerà a navigare a vista, mi sembra che questa sia un'ipotesi meno praticabile. Un'ultima domanda, Marco, sempre di aggiornamento. Allora, ci hai detto all'inizio, perché poi questo è il grande tema di dibattito di queste ore, che almeno all'interno del decreto sviluppo non se ne dovrebbe parlare di condono, però appunto l'ipotesi come misura ovviamente per la riduzione del debito, perché in altro modo non potrebbe essere utilizzato, non è nemmeno consentito utilizzarlo, però l'ipotesi sul tavolo c'è, sia fiscale che edilizio, no? Assolutamente sì, insomma c'è chi lo racchiude nella detta definizione condono tombale, no? Nel momento in cui si procede sia sull'edilizio che sul fiscale senza paletti, si arriverebbe anche a un condono tombale. L'ipotesi c'è già, come sappiamo, dalla scorsa estate, perché già in sede di definizione della prima manovra e anche di quella di Ferragosto, nel PDL si levarono molte voci a favore del condono. Ieri e anche oggi il capogruppo Cicchitto è tornato a ribadire che diciamo di fatto l'opzione resta sul tavolo, e altrettanto ha fatto anche il capogruppo al Senato del PDL Gasparri, quindi quest'idea c'è, resta sul tavolo, però per quello che se ne sa, anche alla luce della riunione che c'è stata oggi sul decreto sviluppo, quella coordinata da Romani di cui parlavamo prima, ribadisco, non dovrebbe rientrare in questo provvedimento, che dovrebbe arrivare a metà ottobre. Vedremo che cosa succederà. Grazie nel frattempo a Marco Rogari del Sole 24 Ore. Buonasera, Marco. Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata. Vi do un'altra notizia appena battuta dalle agenzie, ed è che la Commissione europea ha dato il via libera all'acquisto di Skype da parte di Microsoft. Come sapete, Skype è il servizio che permette di telefonare via internet, per semplificare la cosa. Adesso c'è la viabilità, poi parleremo di giovani, ma prima vi do le motivazioni di Fitch, che sono appena uscite. Le 18:17 minuti e 3 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia, 349-238-6666 per i vostri sms. Scrive Fitch nella nota nella quale ha annunciato il downgrade del debito italiano, parla dell'intensificarsi della crisi della zona euro che costituisce un significativo shock finanziario ed economico che ha indebolito il profilo di rischio sovrano dell'Italia, ma anche che una soluzione credibile e complessiva della crisi è politicamente e tecnicamente complessa e ci vorrà tempo per realizzarla. Per riguadagnare la fiducia degli investitori. Nel frattempo Fitch ha anche deciso di tagliare il rating spagnolo di 2 gradini, portandolo a doppia A meno, che gioco della sorte era il rating dell'Italia esattamente fino a 5 minuti fa, poi appunto è stato downgradata dalla stessa agenzia. Ci occupiamo ora di giovani. I dati ve li abbiamo forniti spesso, il 27,9%, il 28% in sostanza dei giovani italiani tra i 15 e i 24 anni è disoccupato, il 46,7% di chi invece lavora ha un impiego temporaneo. Oggi è tornato a parlare di tutto questo il governatore della Banca d'Italia e prossimo presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi. La bassa crescita dell'Italia degli ultimi anni, dice, anche riflesso delle sempre più scarse opportunità offerte alle giovani generazioni. Saluto Domenico De Masi, sociologo, preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma. Buonasera, professor De Masi. Buonasera, buonasera a voi. Noi vogliamo, in questa giornata nella quale di giovani si è parlato tanto, unire insieme 3 vicende. Le parole del governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, questa protesta che è esplosa oggi, studenti in piazza, 90 cortei in tutta Italia contro quello che sostengono essere il degrado della scuola, ma con delle derivazioni finanziarie serie, se così possiamo dire. Non è il nostro debito, non è la nostra crisi, riassumeva uno striscione. A Milano una tentata irruzione nella sede di Moody's, a Roma decine di cortei, un assalto all'auto blu, sentiamo qualche voce. Quella crisi non la paghiamo! Quella crisi non la paghiamo! E questo era il quadro, e nel frattempo ci uniamo un'altra vicenda perché si parla di prospettive per i giovani. Ebbene, all'indomani delle battute di Silvio Berlusconi sul nome nuovo da dare al partito, 2 ragazzi hanno realizzato una copia del sito del PDL, o meglio una copia del sito del PDL, hanno registrato il dominio www.forzagnocca.it che rimandava al sito del PDL. E poi che cosa si è scoperto? Nel pomeriggio hanno pubblicato su questo sito www.forzagnocca.it chi sono veramente. Sentiamo. Nel momento stesso in cui abbiamo sentito la notizia della battuta del Presidente del Consiglio, non abbiamo avuto alcun dubbio su quello che sarebbe successo in Italia. Notizie e dibattiti monopolizzati, tutto il comparto dei media a parlare quasi solo ed esclusivamente di ipotetici e fantomatici nomi di partito. Con questo scherzo volevamo solo attirare l'attenzione dei media, che spesso manca, sulla miriade di start-upper italiani che con il loro entusiasmo, la loro passione, le loro idee e i loro sacrifici inseguono i sogni che hanno nel cuore, spesso scontrandosi però con una realtà che forse non viaggia alla stessa velocità delle loro intuizioni. Anche Apple per Jobs era un sogno. Noi abbiamo deciso di avere coraggio. Il nostro cuore e la nostra intuizione ci hanno portati a fondare una startup, Vinswear. Purtroppo però Vinswear ha sede negli Stati Uniti, perché in Italia è molto più difficile, troppo più difficile. Chissà quanto c'è di pubblicitario, però il senso della cosa c'è, no, professor De Masi? Ma certo che c'è. Quando si imputa ai giovani di essere poco attivi nella ricerca di nuove forme di lavoro, nella creazione di nuove imprese, si dice qualcosa di veramente ingiusto. Io ho studenti ed ex studenti che fanno di tutto, fanno gli spazzini, puliscono le scale nei palazzi. Mi pare che veramente non gli si possa imputare assolutamente nulla. Ci sarà anche qualche fannullone, ma non è assolutamente la situazione complessiva. Oggi che abbiamo saputo di questa esplosione, in qualche modo non possiamo meravigliarci. Io mi meravigliavo del contrario, del fatto che Wall Street fosse occupata dai giovani, che le piazze di Madrid lo fossero anche, e che in Italia, dove la situazione è molto peggiore, invece i giovani erano silenti. E io spero che quello che facciano sia in qualche modo costruttivo e che comunque chi governa ne tragga l'insegnamento per intervenire, perché la situazione non può andare così. Il mercato del lavoro si sta ripartendo in questo modo, un nucleo centrale molto garantito di lavoratori che fanno in gran parte lavori creativi e lavori piacevoli e ben retribuiti, poi intorno una corona circolare di persone che fanno attività di tipo esecutivo e poi sempre più un numero crescente di persone che non studia più perché ha già terminato gli studi e non lavora perché non ha mai trovato un lavoro. Questo limbo dei nenni, come vengono detti, né lavoro né studio, è un limbo che cresce in tutto il mondo. Non riusciamo a trovare lavoro per tutti perché i genitori lavorano 10 ore al giorno e i figli non hanno assolutamente nulla da fare. È una situazione nuova al mondo, perché in passato quelli che consumavano senza lavorare erano i nobili, quando però il lavoro era qualcosa di terribile, significava fare il contadino, il minatore, eccetera. Oggi che ci sono lavori più piacevoli, perfino di carattere creativo, il lavoro è una merce rara, per cui abbiamo un numero crescente di persone condannate a consumare senza il diritto di produrre. E questa è veramente un'emarginazione terribile dal mercato. Secondo lei, professor De Masi, quali sono le strategie di intervento per portare all'inclusione nel mercato del lavoro di tutte queste persone? Insomma, sa, poi c'è anche gente che ci scrive, come un ascoltatore, Luca, dice: sono un ingegnere meccanico di 31 anni, lavoro da 5, mi trasferisco in America con la green card, poi cercherò lavoro. E ci chiede: mi conviene lasciare l'Italia? Insomma, da quel che sentiamo sembra di sì. Quali sono le strategie per tenere anche questa gente dentro e per creare occupazione per i giovani? Intanto faccio tanti auguri a questo ingegnere che va in America, però in questo momento la disoccupazione giovanile in America è fortissima. Addirittura abbiamo il 16% dei giovani di età che prima andava fuori casa e che invece è diventata bamboccione all'americano, cioè che sta in famiglia, cosa che non avveniva mai prima. Qui abbiamo uno sconvolgimento generale del mercato del lavoro. Ci sono alcuni fenomeni come il progresso tecnologico, il progresso organizzativo, la globalizzazione, che creano un effetto positivo, cioè riusciamo a produrre sempre più beni e sempre più servizi con meno lavoro umano. Però tutto questo gestito in modo disattento e in qualche modo spregiudicato comporta che alcuni hanno ancora molto lavoro e altri non ne hanno affatto. Noi dobbiamo tener conto che la tecnologia, mentre ci crea delle situazioni ottime, crea anche delle vittime. Ci siamo tutti rallegrati del fatto di avere a nostra disposizione l'iPad. Ma l'iPad toglie lavoro a tutti i boscaioli che facevano legna per la carta, a tutte le cartiere, a tutti i camioncini che portavano i giornali nelle edicole, a tutti gli edicolanti, a tutti i tipografi. Cioè, man mano che queste tecnologie così invasive, così belle, così allettanti, così affascinanti, però creano una disoccupazione crescente, se non si organizza il tutto in modo degno, in modo capace. Professore, brevissimamente le chiedo una cosa, virando completamente il discorso dall'altra parte, perché c'è anche il problema opposto. C'è chi, gente over 50, un ascoltatore ci scrive, Nicola da Milano, che è stata lasciata a casa con ancora 7 o 8 anni davanti, e questi hanno un problema di reinserimento nel mercato che forse è ancora più difficile. Terribile, guardi, ci sono persone che vogliono lavorare giovani che hanno terminato gli studi e non hanno trovato lavoro. Ci sono disoccupati che avevano lavoro e sono stati mandati via per mancanza di lavoro delle loro aziende. Ci sono persone pensionate che sono ancora giovanili sotto tutti i punti di vista, perché oggi anche un settantenne tutta una serie di lavori intellettuali li può fare tranquillamente, che vorrebbero lavorare e che non possono lavorare. Il lavoro sta diventando in tutto il mondo una merce rarissima per quel fenomeno che alcuni economisti americani hanno chiamato jobless growth, sviluppo senza lavoro. Noi continuiamo a pensare in termini come se il lavoro aumentasse sempre, invece dobbiamo pensare in senso di ridistribuzione del lavoro, che sarà sempre invece inferiore come quantità e superiore come qualità. Grazie professore, grazie a Domenico De Masi, sociologo, grazie presidente della Facoltà di Scienze Politiche e della Comunicazione alla Sapienza di Roma. Prima di chiudere, 10 secondi così. Stay hungry, stay foolish. E perché citiamo di nuovo Steve Jobs? Perché il Sole 24 Ore, ve lo ricordiamo, sul suo sito internet potete scaricare, prendere il libro, l'Instant Book, che è stato realizzato digitale con vita e opere del fondatore di Apple, visto che anche poco fa ne abbiamo parlato. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Un ringraziamento a Barbara Bianchi in redazione, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Paolo Corleone in regia. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Buonasera. Radio 24. La passione si sente.